Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Viviamo nell'epoca d'oro delle scienze cognitive, così come fu per la fisica all'inizio del Novecento, che ebbe uno sviluppo incredibile. In pochi anni pose le basi di tutte le nostre conoscenze fisiche attuali. Oggi stiamo cominciando a capire quali sono le basi dell'intelligenza e posando i primi mattoni che permetteranno di creare le prime intelligenze artificiali. Ci sono vari approcci da questo punto di vista. C'è l'approccio euristico. In pratica si dà un immenso database in pasto a un computer e lo si dota di algoritmi in grado di cercare al suo interno, su base statistica, le risposte più giuste, diciamo così, a stimoli di vario tipo. L'altra strada cerca invece di simulare il funzionamento del cervello e richiede prima di tutto che rispondiamo ad alcune domande fondamentali. Per esempio, fino a che punto la capacità umana di sviluppare il linguaggio è innata, fino a che punto è frutto di apprendimento, quali sono le basi biologiche del linguaggio e quali le basi biologiche dell'intelligenza. Ebbene, la ricerca di cui parliamo questa sera si inserisce proprio in questo filone. Parliamo di Annabel, un'intelligenza artificiale realizzata in collaborazione con l'Università Britannica di Plymouth, dall'Università di Sassari, dove insegna il coordinatore della ricerca, Bruno Golosio. Buonasera Golosio. Buonasera. Senta, allora, Annabel ha una caratteristica unica. Io direi di partire proprio da qui. Sì, allora, Annabel è una architettura cognitiva, ossia è un modello simulato al computer che rappresenta strutture e processi cognitivi che hanno luogo nella nostra mente. Rispetto ad altre architetture cognitive, questo modello ha le caratteristiche di essere specializzato nell'elaborazione del linguaggio umano e di essere interamente costituito da neuroni artificiali connessi tra loro. Quindi intanto parliamo di un computer che però non funziona come un computer normale, ma simula il funzionamento, per la precisione, di 2 milioni di neuroni, di quelle che sono le cellule, sappiamo, più importanti del cervello. E quindi questo è un primo aspetto. Inoltre, diceva, elabora solo informazioni verbali, scritte per la precisione, no? Quindi legge delle frasi e risponde con delle frasi scritte. Sì, esattamente. Il sistema viene addestrato e validato attraverso un terminale con il quale il sistema interagisce con un interlocutore umano che appunto può scrivere delle frasi al terminale. Il sistema è in grado di memorizzare queste frasi, quindi trasferirle nella sua memoria a lungo termine, e attraverso un processo di esplorazione è in grado anche di tentare di fornire delle risposte. Quando il sistema fornisce una risposta adeguata a una domanda fatta dall'interlocutore umano, appunto quest'ultimo può istruire l'interfaccia di comunicazione con il sistema affinché venga data al sistema una ricompensa. Questa ricompensa ha effetto sulle connessioni tra i neuroni, che vengono modificate di conseguenza in modo simile a come vengono modificate le connessioni tra i neuroni biologici. Ecco perché è importante dire, perché questa forse è proprio la caratteristica unica di Annabel, è che ha imparato da zero, cioè questa rete neurale non aveva una sua conoscenza di partenza. Esattamente. No? Sì, non aveva conoscenze precodificate sulle strutture grammaticali, sul significato delle parole o sul ruolo delle diverse parti del discorso. Partiva da una condizione di tabula rasa e, partendo da questa condizione, il modello ha dimostrato di essere in grado di sviluppare un ampio spettro di competenze nell'elaborazione del linguaggio. Questo risultato è molto importante perché è un passo avanti nel supportare l'ipotesi che le nostre funzioni cognitive più elevate, come quelle legate al linguaggio e al ragionamento, richiedano una limitata conoscenza innata, ma siano piuttosto il prodotto dell'esperienza, delle interazioni sociali e delle interazioni tra la nostra mente e il nostro corpo. Ecco, quali saranno i prossimi sviluppi di questo progetto? Uno sviluppo importante di questo progetto riguarda la sua integrazione all'interno di un sistema più ampio che includa anche dei moduli per la visione artificiale, per il controllo del movimento e per altre percezioni. Quindi la multisensorialità è questo il prossimo passo, integrare informazioni di vario tipo. Anche per l'apprendimento del linguaggio, perché diciamo, ormai è assodato il fatto che il linguaggio acquista significato quando è legato ad altre percezioni sensoriali. Ed è chiarissimo, se pensiamo che la comunicazione cosiddetta non verbale è gran parte della comunicazione, quando due persone per esempio si parlano guardandosi in faccia. Va bene, esatto. grazie Bruno Golosio. Grazie a lei. È tutto, a lunedì. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.